Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Anche Möbius vi può parlare di Obama. Fra poco però, eh? Benvenuti a tutti e tutte e ascoltiamo i titoli di questa puntata. Nella Casa Bianca di Obama sta iniziando a lavorare una squadra di governo nella quale molti esponenti appartengono al mondo della scienza. È la prima volta nella storia degli Stati Uniti. Il 2009 è generoso di anniversari. Tra Darwin e Galileo stavamo per dimenticarci di Marconi, primo Nobel italiano per la fisica. Dalla ricerca italiana escono sempre più brevetti. Ma è una crescita produttiva? E se chi fa ricerca si interessa di progetti industriali, perde la capacità di fare scienza? Sono in grado di scegliere il sasso più adatto con cui rompere una noce. I cebi dai cornetti scelgono in modo ragionato come risolvere un problema. Un team italiano ha studiato questa attitudine in Brasile. Mostre importanti stanno raccontando l'arte di Caravaggio e nei suoi quadri c'è uno spazio per la scienza. Una nuova ricerca dovrà spiegare da dove viene quella strana fluorescenza dei suoi dipinti. Si chiama Brainstein. È un nuovo gioco sulla vita e le teorie di Albert Einstein. Progettato alla Sissa di Trieste, è in cerca di un editore. A due giovani vincitori del Premio Sapio abbiamo chiesto di parlarci delle loro ricerche e di cosa più li penalizza del sistema italiano. La risposta è ovvia e sorprendente allo stesso tempo. Questa che state ascoltando è la voce di Aretha Franklin durante la cerimonia di insediamento di Barack Obama martedì scorso a Washington. È la prima volta nella storia degli Stati Uniti che alla Casa Bianca si mette a lavorare un governo con molti esperti di cose di scienza. E il governo uscente, quello di George Bush, ha battuto ogni record in fatto di lontananza dalle competenze scientifiche. Merita ricordare che nelle ultime settimane della campagna elettorale tutte le realtà più importanti della ricerca statunitense hanno sottoscritto un manifesto, migliaia le firme di adesione, nel quale molto semplicemente si diceva: per favore mandate alla Casa Bianca qualcuno che sa cos'è la scienza. Ha senso soffermarsi su questa singolare vicenda storica? Ha senso perché stiamo parlando di un paese che è al vertice della produzione di scienza mondiale e lo è da svariati decenni. È un paese che ha prodotto grandi tecnologie innovative e sappiamo tutti che l'innovazione è il prodotto finale della ricerca scientifica. Il mondo della scienza statunitense, poi, è uno degli ambienti più densamente popolato da gente che proviene da tutto il mondo, da tutto il pianeta, e questo significa che da questo habitat possono provenire suggerimenti e indicazioni preziose per un paese che vuole svolgere un ruolo tanto importante, e così per gli Stati Uniti, sulla scena planetaria. Insomma, ne dovrebbe discendere che il luogo più importante del potere politico dovrebbe avere una lunga tradizione come ambiente in cui trovare ciò che di meglio può uscire dal rapporto fra azione politica e cultura scientifica. Con Barack Obama sembra emergere una svolta. Oggi più che mai la scienza ha le chiavi per la nostra sopravvivenza su questo pianeta. È una delle dichiarazioni più recenti del nuovo presidente. Stephen Chu, fisico americano di origine cinese, premio Nobel, è stato nominato segretario ai problemi dell'energia. E questa è la notizia che, in merito alle attenzioni di Obama verso la scienza, è maggiormente circolata. Un altro incarico importante è andato a Jane Lubchenco, biologa marina, che dirigerà l'Agenzia Nazionale NOAA, ovvero l'ente che si occupa dei cambiamenti in atmosfera e negli oceani. Durante l'amministrazione Bush, Jane Lubchenco, una vera autorità in questo campo, aveva aspramente criticato il governo per la sua sottovalutazione dei problemi climatici. Obama ha anche nominato un suo particolare consigliere scientifico, è John Aldrin, fisico ad Harvard, esperto di problemi energetici, di proliferazione nucleare, di ambiente in generale. Anche Eric Lender e Harold Varmus, scienziati di alto livello nel campo biomedico, sono stati cooptati nella squadra di consulenti scientifici. Un dato che molti osservatori sottolineano è che tutti questi esponenti della ricerca non avrebbero accettato l'incarico se non avessero ricevuto precise garanzie sulla effettiva loro funzione. Niente effetti speciali, insomma, privi di una reale sostanza sul campo. Un breve passaggio di un discorso di Obama dovrebbe dare garanzie in questa direzione. Dobbiamo ascoltare cosa ha da dire la scienza, soprattutto quando non è piacevole farlo. E un'altra affermazione del nuovo presidente sembra dimostrare che la sua comprensione di come funziona la ricerca è di gran lunga superiore a quella del suo predecessore e di molti altri presidenti. Raddoppieremo i fondi alla ricerca di base, ha detto Obama. Verranno raddoppiati nell'arco dei prossimi 10 anni. E qui, certo, una considerazione finale non può essere tralasciata. Molti politici, diciamocelo, nel nostro paese sono tantissimi, per esempio, pensano che la ricerca di base sia quell'attività un po' poetica, che è carino, abbia un suo spazio, ma quello che conta è la ricerca tecnologica, quella che si può subito applicare. Potremmo dire che affermazioni di questo genere, tradotte in un contesto calcistico, sono tanto intelligenti quanto lo sarebbe affermare che ciò che conta è giocare la partita di campionato, inutile perdere tempo negli allenamenti. Questo per dire che si può essere indubbiamente felici di questa svolta alla Casa Bianca, tuttavia, insomma, era un cambiamento banale. Il 2009 è un anno di anniversari importanti: Galileo, Darwin e anche Guglielmo Marconi, che nel 1909 guadagna il Nobel ed è il primo italiano a ricevere questo prestigioso premio. Maurizio Melis vi racconta come tutto iniziò con un aquilone. Queste esperienze provarono conclusivamente che la trasmissione e la ricezione delle onde elettriche non erano affatto limitate, come a quel tempo credevano tutti gli scienziati, alle brevi distanze, bensì potevano essere utilizzate per le comunicazioni fra il vecchio e il nuovo mondo, e molto probabilmente anche a distanze assai maggiori. La voce che avete sentito è quella di Guglielmo Marconi, grande fisico, imprenditore e primo premio Nobel italiano nel 1909, quindi esattamente 100 anni fa. Marconi è noto per il telefono senza fili, meno per la sua capacità imprenditoriale e organizzativa e per la visione moderna del ruolo della ricerca agganciata all'industria, capace di creare ricchezza per il paese e favorire, queste sono parole sue, l'indipendenza dalle risorse naturali degli altri paesi meglio dotati dalla natura. Quindi una persona capace indubbiamente di guardare avanti. Questa impostazione cercò di trasfonderla nel CNR negli anni in cui lo diresse, dal 1927 fino alla morte avvenuta nel 1937, 10 anni dopo. Ecco l'audio che avete sentito è tratto da una registrazione in cui lo stesso Marconi rievoca in estrema sintesi i giorni dell'invenzione. Un'impresa, quella di Marconi, che ampliò improvvisamente e radicalmente la possibilità di comunicare a distanza senza bisogno di tirare fili. Una rivoluzione che ancora oggi non ha in fondo terminato di esprimere tutto il suo potenziale se pensiamo a tecnologie come WiMAX, cioè l'internet senza fili, analogo al Wi-Fi che molti di noi hanno a casa, però su larga scala. Innovazioni quindi che sono ancora in progress. Ma torniamo a inizio secolo, è il 1901 e Marconi ha fatto costruire 2 stazioni, una trasmittente in Inghilterra e una ricevente sulla costa orientale degli Stati Uniti. La costruzione di queste 2 stazioni, per le quali fu necessario arrischiare una ingentissima somma, fu ultimata nell'agosto del 1901, se non che, poco tempo dopo, una bufera danneggiò il padiglione aereo della stazione inglese ed un ciclone distrusse totalmente le antenne della stazione americana. La disavventura però non ferma Marconi, che ricostruisce in fretta e furia 2 stazioni provvisorie. La mattina del 12 dicembre 1901 tutto è pronto. Un gruppo di collaboratori di Marconi in Inghilterra ha l'ordine di trasmettere a una data ora un certo numero di S in codice Morse. La S in codice Morse, come molti sanno, è una sequenza di 3 brevi impulsi. Marconi si trova in America in quel momento, su una collina vicino a San Giovanni di Terranova. Tira un vento gelido, ma con l'aiuto dei collaboratori e dopo un certo numero di tentativi andati a vuoto, un cervo volante, una sorta di aquilone, si solleva per 120 metri trascinando con sé un filo che funge da antenna ricevente. Si avvicina il momento decisivo. Ascoltiamo come andò ancora una volta dalla voce di Marconi. Alle 12:30, mentre ero in ascolto al telefono del ricevitore, ecco giungere al mio orecchio, debolmente, ma con tale chiarezza da non lasciare adito a dubbi, una successione ritmica dei tre punti corrispondenti alla lettera S dell'alfabeto Morse. I segnali, cioè, che secondo gli ordini da me impartiti, venivano lanciati nello spazio dalla stazione di Polju sull'altra sponda dell'oceano. Era nata in quel momento la radiotelegrafia a grande distanza, la distanza di oltre 3.000 chilometri, che sembrava allora enorme per la radio, era stata superata, nonostante il presunto ostacolo della curvatura terrestre che tutti ritenevano insormontabile. Da quel giorno la scienza delle radiocomunicazioni ha fatto passi da gigante ed offre oggi all'umanità il più potente ed universale mezzo di rapida comunicazione a distanza che il mondo abbia mai conosciuto. Guglielmo Marconi. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Pronti? Pronte? Siamo arrivati al nostro gioco, il quiz. Fra un po', qui in trasmissione, giocheremo a Brainstein, che è un gioco il quale, mi sembra chiaro, c'entra con Albert Einstein e con il cervello, anzi, meglio, con il suo cervello. Allora, il quiz con tutto questo c'entra, ed eccolo qua. Il cervello di Einstein, secondo l'anatomopatologo Thomas Stoltz Harvey dell'ospedale di Princeton, che fece l'autopsia sul corpo dello scienziato, questo cervello presentava particolarità tali da giustificare la sua genialità. Quali sono queste particolarità? Prima risposta, era più grande della media. Ci scriverete media. Seconda, mancava della cosiddetta scissura di Silvio. Ci scriverete Silvio. Terza possibilità, presentava un corpo calloso abnorme. Ci scriverete corpo. Ci scriverete con un SMS al 349-238-6666. Il libro che si vince questa settimana è La scienza e la vita di Albert Einstein di Abraham Pais ed è edito da Bollati Boringhieri. È una splendida biografia di questo scienziato. In collaborazione con IBS.it. La Fondazione Cotec si occupa di cultura dell'innovazione, in particolare di innovazione nel nostro paese. In collaborazione con Mebius, Cotec sta analizzando vari aspetti di questo problema. Nel servizio che segue, Barbara Gallavotti affronta uno degli aspetti centrali della vicenda, la brevettazione. Sempre di più negli ultimi anni i ricercatori italiani sono stati incoraggiati a brevettare le proprie scoperte e nel 2001 è stata introdotta anche una norma soprannominata privilegio dei professori. Vedremo di cosa si tratta con Maurizio Sobrero, direttore del Dipartimento di Scienze Aziendali all'Università di Bologna e promotore della creazione di una banca dati sui brevetti a università e centri pubblici. Con lui cercheremo anche di capire se i brevetti prodotti dal mondo della ricerca rendono e in che termini rendono. Buonasera Maurizio Sobrero. Buonasera. In primo luogo, ci spiega cos'è questa norma dal soprannome buffo, privilegio dei professori? Questo termine, privilegio dei professori, in realtà sottolinea un aspetto un po' tecnico. Tipicamente quando si deposita un brevetto, l'inventore non è detto che sia anche il titolare dei diritti di proprietà derivanti dal brevetto stesso. Normalmente non è così nel mondo privato, dove se io lavoro per la Fiat io sono l'inventore, però il titolare dei diritti è la Fiat stessa, quindi il mio datore di lavoro. Nel caso invece che lei citava, la norma ha fatto sì che i professori universitari e i ricercatori pubblici in generale siano loro stessi titolari non solo del diritto a essere riconosciuti come inventori, ma anche poi dei diritti successivi, quindi eventualmente anche dei proventi che derivino dai brevetti, e non più invece i loro datori di lavoro, quindi l'università o i centri pubblici corrispondenti. E questo non è quanto avviene nel resto del mondo? Diciamo che questo è un tipo di situazione che era molto radicata in alcuni paesi europei come la Germania e i paesi del nord Europa e è stata all'inizio degli anni 2000 in realtà cambiata proprio in Danimarca e in Germania, mentre rimane ancora valida in Svezia e in Norvegia, quindi nella parte più scandinava. Gli Stati Uniti non hanno mai avuto una situazione di questo genere, ma hanno introdotto una norma all'inizio degli anni 80 ancora più orientata invece in senso opposto, cioè prima i diritti di proprietà intellettuale erano di titolarità del governo federale e con la norma del 1981, si chiama Bayh-Dole Act, invece sono diventati di titolarità delle università e dei centri di ricerca che erano finanziati dal governo federale. Ecco, che cos'è che non funziona nel privilegio dei professori? Ma guardi, era stato introdotto nella finanziaria 2001 con una intenzione anche da un certo punto di vista difendibile, ovvero il fatto che ci si dovesse concentrare sul singolo e sull'individuo come motore dello sviluppo economico. In realtà, diciamo, poi questo cozza contro alcuni problemi concreti. Da un punto di vista economico è inefficiente, perché chiaramente gestire dei brevetti è una cosa complicata e anche molto costosa, e quindi si può provare, ci sono numerosi studi che lo fanno vedere, che i singoli sono meno efficienti di una struttura organizzata. Poi, da un altro punto di vista, è anche un po' iniquo, se mi consente il termine, perché mai un dipendente pubblico dovrebbe poter godere di questo privilegio e non anche un dipendente privato? Se io vengo assunto da un'impresa non metto neanche in discussione il fatto che il mio lavoro intellettuale genererà per la stessa un qualche ritorno economico, anche perché per questo che sono in parte pagato, quindi insomma c'è anche un tema di iniquità tra il trattamento del pubblico e del privato. Ma vedendola dal punto di vista opposto, questa attività porta danni alla ricerca? Cioè c'è un qualche problema quando la ricerca viene coinvolta in attività che poi alla fine hanno un fine di reddito? Guardi, in questo momento in cui si discute molto anche animatamente del problema della privatizzazione della ricerca pubblica, credo che su questi temi sia importante ragionare sulla base di fatti e non solo di impressioni. Al momento non esiste nessun dato comparativo che dica che un ricercatore che brevetta diventa un ricercatore che non fa più ricerca, oppure le strutture che danno attenzione a questo tipo di problemi, che siano strutture dove si fa solo ricerca a servizio delle imprese e non si fa più ricerca di base, oppure che i ricercatori che si mettono a lavorare su questi temi e riescono a brevettare siano ricercatori che poi non collaborano con i propri colleghi, non pubblicano i propri lavori, eccetera. Esattamente vero il contrario, bravi ricercatori sono anche bravi soggetti che riescono a interagire con il mondo delle imprese. È evidente che da noi questo è un fatto più recente, quindi scatena una serie di discussioni spesso appunto non proprio fondate sui fatti, ma più su una visione ideale della situazione. In realtà queste modalità di interazione con la società sono importanti proprio per fare sì che il lavoro dell'università si trasferisca sul contesto della società che ci circonda. Insomma, quindi personalmente mi sentirei di escludere sia da un punto di vista di valori che da un punto di vista di risultati concreti che questi fatti minino l'autonomia della ricerca, anzi più la ricerca riesce a interagire con l'esterno senza avere vincoli diciamo così strutturali, più si può essere liberi. Grazie Maurizio Sobrero, buonasera. Buonasera a lei. Se aspettiamo un po', magari su questo po' in termini temporali verrà fuori che ci vorrà certo numero di anni, però vedrete, ritroveremo nei negozi di ferramenta a comprarsi cacciavite, martelli, chiavi inglesi. Chiara Albicocco vi racconta ora cosa usano i cebi dai cornetti, sono scimmie, per rompere le noci. Qualche mese fa la notizia era che fossero abili negli affari. Ne avevamo parlato anche qui a Mebius e in questi giorni invece i cebi dai cornetti tornano protagonisti della cronaca scientifica perché un gruppo di ricercatori italiani ha dimostrato che sanno anche compiere scelte ragionate per risolvere alcuni problemi di carattere pratico, come ad esempio rompere una noce. Elisabetta Visalberghi, che è qui con noi questa sera, buonasera. Buonasera. Ecco, è a capo del team che ha effettuato questi esperimenti su un gruppo di cebi in Brasile, corretto? Esatto. Allora, le diamo il benvenuto e lei lavora presso l'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR di Roma, è esperta di CEBI e magari specifichiamolo per chi non sa cosa fossero, sono delle scimmiette sudamericane e sono grosse più o meno come un gatto, un po' più grosse di un gatto per dare l'idea. Il maschio dominante può raggiungere i 4 kg in natura, non molto di più. Ecco, allora ci racconti innanzitutto che esperimenti avete fatto. Ma dunque l'esperimento nasce dalle nostre osservazioni sull'uso spontaneo di uso di strumenti che fanno queste scimmie nel Piauí. L'idea era di vedere se realmente fossero capaci di selezionare fra due sassi possibili quello più adatto a rompere delle noci durissime. L'animale doveva dirigersi verso il posto dove c'era la scelta, prendere uno dei sassi e portarla, fra l'altro diciamo con una certa fatica perché devono camminare bipedi trasportando questo sasso pesante, sino all'incudine per rompere la noce. In alcune condizioni abbiamo presentato sassi simili a quelli che normalmente le scimmie incontrano a Boa Vista dove vivono. E per esempio c'era un sasso fragile fatto di arenito, un sasso invece molto più compatto, meno fragile, che non si rompeva nell'impatto con la noce, fatto di siltito. In questo caso le scimmie non hanno avuto dubbi, hanno scelto quello di siltito, nonostante che i nostri ricercatori in alcuni casi avessero difficoltà a riconoscere fra i due sassi, ma questo non avveniva per le scimmie molto più esperte. Nella seconda condizione c'era invece un sasso di materiale denso e quindi che non si rompeva, ma di dimensioni diverse, uno piccolo e uno grande. Quello piccolo era troppo leggero per rompere la noce e anche in questo caso le scimmie hanno sempre scelto e trasportato il sasso giusto. Diciamo che istintivamente i cebi sono riusciti a risolvere il problema, ma a questo punto voi avete complicato un po' le cose, li avete un po' ingannati, avete fornito loro dei sassi costruiti in laboratorio. Esatto, perché in un qualche modo ci siamo chiesti come reagirebbero di fronte a situazioni nuove con sassi mai visti prima che per di più hanno proprietà strane. A questo punto abbiamo costruito in laboratorio dei sassi di resina, sì. E abbiamo dato loro per esempio due sassi identici, ambedue grigi, ambedue della stessa forma, dello stesso materiale esterno, ma uno pesava tipo sui 6 etti e quell'altro pesava circa un etto e mezzo. Bene, che cosa hanno fatto le scimmie di fronte a questi due sassi? La prima cosa è che sono andati a caso, i sassi erano visivamente identici, sì. E non sapevano qual era buono, ma la cosa sorprendente è che quando cavano per prima quello leggero, prendevano magari su e in un qualche modo non sapevano che fare, erano sorpresi del fatto che pur essendo grande fosse così leggero. E si sono poi diretti all'altro sasso per vedere se era la stessa cosa oppure no. Nel momento in cui hanno realizzato che l'altro sasso, anche se identico visivamente, era invece pesante, hanno subito preso quest'ultimo sasso e l'hanno trasportato all'incudine per rompere la noce. Quindi non si sono fatti ingannare dalle apparenze, ma hanno dato attenzione alla caratteristica funzionale, ovvero sia al peso, per fare la scelta giusta. E addirittura questo l'hanno fatto anche in una condizione ancora più complessa, che noi chiamiamo condizione controintuitiva, dove noi presentavamo due sassi di resina sempre, in cui quello grande era leggero e quello piccolo era pesante. Proprio una fregatura. Esatto, perché in natura diciamo dimensioni e peso sono cose che correlano, quindi in un qualche modo abbiamo dimostrato che anche di fronte a una situazione controintuitiva i cebi usano diciamo il cervello. Sicuramente diciamo quello che stupisce in tutti i casi è che lo facciano delle scimmie che sono lontani da noi, quindi hanno un antenato in comune con l'uomo 35 milioni di anni fa. E quindi la selettività, che è stata una delle caratteristiche che gli archeologi hanno sempre pensato in un qualche modo contraddistinguesse il comportamento degli ominidi primitivi, che insomma dei nostri antenati lontani, è presente anche in scimmie che, vista la loro ecologia e vista le loro esperienze giornaliere con sassi usati come percussori per rompere il guscio di frutti duro, acquisiscono con l'esperienza queste conoscenze. Chiarissimo, ecco, io voglio ricordare che sul nostro sito www.moebiusonline.eu ci sono alcune foto, alcuni video che ritraggono proprio questi esperimenti a testimonianza che quello che ci ha detto è tutto verissimo. Ecco, le chiedo un'ultima cosa, quali saranno i prossimi esperimenti, cioè quali altre doti dei cebi volete testare? Noi adesso penso che andremo avanti con esperimenti in cui tenteremo di capire se i cebi tengono nella loro scelta dello strumento più idoneo, considerano anche la durezza delle differenti specie di noci. Quindi per le noci estremamente dure ci aspettiamo che scelgano sassi più pesanti che per le noci meno dure, per le quali possono funzionare sia sassi che pesano intorno ai 6 etti, a 1 chilo, e quindi sono sempre esperimenti di selettività, ma più complicati. Sempre più difficile, la situazione si complica. Va bene, esatto, allora se avremo i soldi per farlo, perché la situazione della ricerca sia in Italia che altrove non è molto facile. Buon lavoro, professoressa. Arrivederci. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Il Caravaggio credo sia un pittore fra i più amati e noti da un vasto pubblico che magari in generale può anche non interessarsi molto di arte, ma che alcuni grandi, il Caravaggio è certamente uno di questi, li ha bene in mente. Nei quadri di questo pittore c'è un elemento di fondo, un elemento fondamentale, la luce, la luminosità come elemento essenziale della narrazione. Una ricercatrice italiana ci suggerisce una singolare interpretazione per quanto riguarda l'origine di questa luminosità. Roberta Lapucci, buonasera. Buonasera a lei. Roberta Lapucci, capo dipartimento del settore restauro dell'Università Americana Sacci, che si trova a Firenze, e poi Roberta Lapucci insegna anche all'Università di Firenze. Ecco, allora Lapucci, cosa c'è all'origine di questo progetto di ricerca che tra l'altro appunto inizierà nei prossimi mesi e ci darà dei risultati nei prossimi 2-3 anni, immagino. Che cosa lei ha individuato come possibile interpretazione di questa luminosità nel Caravaggio? Bene, è dal 1994 che io con un articolo su Paragone mi occupo di queste tematiche. Mi sono trovata in qualche modo a scontrarmi con una pubblicazione anglosassone, quella di David Hockney. Hockney, leggendo alcuni dei miei studi, aveva male interpretato le mie opinioni sull'uso della camera oscura del Caravaggio. Ho aperto un dibattito con lui che è finito, confluito in un convegno Painted Optics che si è tenuto a settembre scorso, nel quale abbiamo installato, posto sulla tavola le nostre idee, installato una camera oscura nel giardino della Sacci, questa università americana dove io insegno, e discusso i vari sistemi di proiezione. Ecco, ma mi scusi Lapucci, lei ci dà per scontata che sappiamo che noi tutti si sappia che il Caravaggio usava una camera oscura per dipingere. Vogliamo dedicare uno spazio a questa cosa? Cioè, praticamente usava un sistema di proiezione dell'immagine all'interno di una camera, una proiezione sulla tela. Allora, usciranno gli atti di questo convegno a breve termine. La sua ricerca in questo settore parte presso il Cardinal del Monte. In quel periodo lui si avvicina a un gruppo di scienziati di stampo galileiano, collaborano continuamente e insieme sia al Della Porta, che Caravaggio poteva aver conosciuto per varie vie sia a Roma che a Milano, sia il Galileo e il Guidobaldo del Monte come tramite, sviluppano dei sistemi, diciamo, equivalenti oggi a o un telescopio cannocchiale, come vogliamo, o a un proiettore di diapositive, dei sistemi complessi di lenti, di convesse, specchi, piani e concavi per la proiezione o l'ingrandimento delle immagini o per la visione da lontano, a distanza. E quindi Caravaggio, dobbiamo immaginarcelo all'interno di una camera oscura nella quale arriva un'immagine di una figura che viene presa dalla luce fuori, viene colpita dalla luce fuori e si proietta sulla tela del Caravaggio, ma è qui che viene fuori questa ipotesi sulla fluorescenza. Fotografia, no? Esattamente. Sì. Allora, sia Caravaggio che Ribera avevano bisogno di un particolare tipo di luce, un cono ristretto, una luce proveniente dall'alto che illuminasse la figura in un certo modo, avevano una sorta di barriera, potrebbe essere una tenda, potrebbe essere un pannello ligneo, l'immagine passava da un foro piccolissimo attraverso questa barriera, incontrava questi sistemi, ne usa diversi a diversi stadi della sua attività pittorica, quindi proiettava l'immagine, riusciva a ribaltarla sopra sotto, non destra sinistra, proiettava a patchwork vari piccoli pezzi di composizione perché non ha delle lenti grandi di dimensioni per poter in una sola scena inquadrare una persona, una figura intera, per esempio, quindi proietta un torso, proietta un paio di gambe e poi le combina insieme. Spesso le due proiezioni non tornano, mette un manto rosso sui fianchi per nascondere la disgiunzione fra queste due parti, no? Quindi ci sono moltissimi distorsioni, aberrazioni nelle opere del Caravaggio che ci fanno capire che lui sta proiettando immagini. A quel punto come le dipinge? Essendo in un ambiente oscuro, in una stanza non luminosa, perché la luce è dalla parte del modello. Certo. La luce proveniente dall'alto. E qui è venuta questa nuova ipotesi, diciamo è apparsa sui giornali in forma un po' comica, no? Caravaggio dipinge con le lucciole, ma invece Caravaggio utilizza dei materiali fotoluminescenti, non le lucciole. Avevo parlato della possibilità dell'esistenza di materiali fotoluminescenti nel 600 perché nel trattato sempre del Della Porta, nel Magia Naturalis des Della Porta, si parla di essiccare delle lucciole e usarle per fare una polvere magica luminescente da usare a teatro. In Caravaggio non sono lucciole, potrebbero anche essere, non l'ho detto io. Ora, le lucciole sono materiali organici facilmente degradabili e quindi è difficile trovarli, non sarebbero più nelle sue opere. Mentre abbiamo trovato attraverso le XRF a scansione un po' in tante opere, in quasi tutte le opere del Caravaggio, un po' distribuito su tutta la superficie, grande presenza di mercurio. Perché il mercurio genera una fluorescenza se colpito dalla luce. I sali di mercurio, l'iodoro, il cloruro, il nitrato di mercurio potrebbero produrre una fluorescenza e quindi una volta proiettata l'immagine con probabilmente lo ioduro di mercurio l'immagine permaneva per un certo tempo e a quel punto Caravaggio la fissava, era un'immagine monocromatica in bianco e nero, Caravaggio la fissava velocemente con una abbozza BH, il famoso abbozza BH che più volte è stato riscontrato nelle radiografie. Oggi la presenza nella bozza BH del Caravaggio, già individuata negli anni 80, di barite, cioè di solfato di bario, ci permette di capire che anche quella pittura bianca con cui lui stendeva l'abbozzo era luminosa, aveva un effetto glow in the dark. Okay. La ricerca partirà nell'arco di pochi mesi e sarà effettuata abbinando delle stratigrafie a un nuovo tipo di analisi non invasiva, non distruttiva, che utilizzerà un nuovo strumento tipo un interferometro di Michelson a immagine a scansione per capire a che profondità, a quanti micron sotto la pellicola pittorica questi materiali sono ubicati, perché il processo funziona se questi sono nella preparazione. Cioè, se scoprirete che nella pittura del Caravaggio proprio la base aveva questa ioduro presenza con nitrato, vuol dire cloruro che, di mercurio, vuol dire che effettivamente quella era la sua tecnica. Assolutamente. Narrativa. Sì. Grazie Roberta Rapucci. Grazie e buon lavoro. Lei. Arrivederci. Brainstein! Cervellati con Albert. In collaborazione con Festival delle Scienze Roma e Auditorium Parco della Musica. Allora, è una prima navicella che è stata spedita nello spazio dall'URSS. Lunar Code, direi. Ragazzi, allora una parte della parola è un'emissione di saliva dalla bocca. Ah, lo Sputnik! Esatto. Sì, esatto, il nostro ospite ha già risposto, adesso ve lo presentiamo. Stiamo per giocare rapidamente a Brainstein. Chiara Albicocco, ciao, presente il nostro ospite. Buonasera, siamo qui con Davide Coero Borga, che è ideatore di questo gioco di cui parliamo adesso. Buonasera. Buonasera Davide. Quello che abbiamo sentito è un breve estratto da una presentazione che voi avete già fatto la settimana scorsa a Roma, perché questo gioco l'avete fatto live, insomma, in grande, ma arriverà una scatola. Durante il Festival della Scienza. Durante il Festival della Scienza. Dai, cos'è questo gioco, da dove nasce? Questo gioco è nato da un gruppo di scalcagnati comunicatori della Sissa, all'interno di un corso proprio su Einstein. Ci è venuta l'idea di... volevamo qualcosa in grado di stravolgere un po' la teoria di Einstein e poterla snocciolare in aneddoti, curiosità, gossip anche sulla vita, per parlare innanzitutto dell'uomo Einstein e inquadrarlo nel suo periodo, nel Novecento. Una chiave di lettura per raccontare la scienza e il mondo che ruota attorno ad essa. Con una serie di particolari, infatti dal nostro quiz l'avete capito, ci siamo trovati anche a parlare del cervello di Einstein. Eh sì, parliamo del cervello di Einstein, tant'è che sia il gioco si chiama Brainstein, che è appunto il connubio tra la parola brain, che è cervello, e Einstein. E poi, ecco, io direi che subito dobbiamo svelare l'enigma del nostro quiz, che ci chiedeva quale particolarità avesse il cervello di Einstein per giustificare la sua genialità. Le tre risposte erano che fosse più grande della media, che non avesse la scissura di Silvio e che presentasse un corpo calloso abnorme. Dunque, Davide, dacci la risposta. Mancava la cosiddetta scissura di Silvio. E so a questo punto che tra i nostri ascoltatori partirà una valanga di possibili commenti, però la risposta? La risposta è che la scissura di Silvio è stata scoperta da Franciscus de la Boe Silvius, intorno alla metà del XVII secolo, e la scissura di Silvio è laterale, divide due lobi, quello temporale dai sovrastanti lobi frontale e parietale. Ecco, c'è tutto un aneddoto anche da raccontare sul cervello di Einstein, che direi di aprire una piccola parentesi, perché se non ricordo male fu trafugato per circa 40 anni. Grottesco, come andò la cosa? Questo medico che fece l'esame sul suo corpo? Il medico se lo portò semplicemente a casa, all'epoca si poteva fare, e iniziò a dissezionarlo e ogni tanto, per confrontarsi con i suoi colleghi, ne inviava qualche pezzo per posta in giro per il mondo e aspettava le risposte. Lo che riportò orrore. Dopo 40 anni, quando ormai aveva abbandonato la professione ed era finito addirittura a fare l'operaio. Ecco Davide, questa era una delle 500 domande che compongono il gioco. Si toccano un po' di temi, anche divertenti. C'è qualche aneddoto particolare anche sui piedi e sui capelli del grande scienziato? I piedi sono una parte importante di Einstein. Gli permisero di evitare il servizio militare in Svizzera. Perché? Perché aveva i piedi piatti. E io so che aveva anche le vene varicose, ma comunque andiamo avanti. Andando molto sul personale. Capelli? Ci scherzò sopra al Triangle Club di Princeton, passando silenzioso davanti al negozio di un barbiere. Venne in seguito contattato dalla Carlsberg per pubblicizzarla e contattato anche da un ideatore di lozioni per capelli che voleva chiamare la sua lozione Einstein. Ah, un po' la Ronaldo, diciamo. Pubblicità che non ci fu. Non ci fu. Davide, ci sono delle domande interessanti, curiose anche su quella che era la vita prima della grande carriera scientifica di Einstein, sui primi passi, diciamo, da scienziato. Molti conoscono un Einstein all'ufficio brevetti. Non tutti forse sanno che brevettò lui stesso un'invenzione, un tipo di bussola per sottomarini. E qui andiamo indietro ad Einstein bambino, che riceve come regalo scientifico da parte del papà proprio una bussola. Mi viene da chiederti, Davide, se si gioca coi dadi, però conoscendo Einstein mi viene qualche dubbio. Hai ragione, forse stavi pensando alla famosa frase di Einstein: Dio non gioca dadi. Esatto. Infatti lui sosteneva la sostanziale semplicità dei fenomeni naturali e non la casualità. Infatti non ci sono dadi nel gioco e la regola di fondo, relativistica appunto, è che ogni concorrente è sempre connesso a tutti gli altri. Beh, segue la legge della relatività. Esatto. Siamo in conclusione. Davide, so che state cercando un'editrice giochi per il vostro gioco. Magari sarebbe bello portare Einstein nei negozi. Dai, proviamo a lanciare l'appello. In una scatola gioco sul nostro sito troverete le indicazioni per rintracciare il gruppo di Bernstein. Grazie Davide. Grazie Davide, ciao. Arrivederci. Vi ricordo allora che sul nostro sito, l'indirizzo è www.moebiusonline.eu, troverete anche delle immagini che riguardano questo gioco. Voglio anche ricordarvi che abbiamo aperto una pagina su Facebook, potete trovarla digitando nella casellina di Facebook Moebius Scienza. Diventate quindi nostri amici, se amate la scienza fra un po' vi faremo fare un po' di cose. Moebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Non sono un granché in Italia i rapporti fra il mondo delle imprese e la ricerca scientifica. Maurizio Melis vi racconta adesso di un caso in cui queste relazioni sono buone. Dunque, decima edizione del premio Sapio. Sapio è un'azienda che opera prevalentemente nel campo dei gas tecnici e che da 10 anni offre una borsa di studio a giovani ricercatori che si distinguono nella ricerca. Ne abbiamo qui due, Donato Vincenzi e Francesca Macedonio. Cerchiamo di capire un po' su che cosa verteva la ricerca che è stata premiata tanto per cominciare. Dunque, Francesca Macedonio, Dipartimento di Ingegneria Chimica e dei Materiali, Università della Calabria. Il titolo della ricerca è Nuove strategie di integrazione delle operazioni a membrana per la dissalazione delle acque. Quindi parliamo di dissalazione delle acque e di una tecnologia che utilizza delle membrane. Ci sono delle membrane particolari che consentono di distillare in qualche modo, di separare l'acqua pulita lasciando da un'altra parte i sali. Ecco, a quale esigenza specifica però risponde questa ricerca? Quindi che problema si propone di risolvere? Allora, l'obiettivo di questa ricerca è quello di incrementare la quantità di acqua dissalata prodotta a parità di alimentazione rispetto a quella che si ottiene attualmente dai tradizionali impianti di dissalazione, che sono quelli termici, oppure anche impianti a membrana, però impianti a membrana che utilizzano la sola osmosi inversa. Spieghiamo un attimo che cos'è l'osmosi inversa, in che cosa consiste in termini molto semplici. Allora, l'osmosi, il processo dell'osmosi è il processo tramite il quale quando noi abbiamo due soluzioni a contatto, dalla soluzione più diluita l'acqua passa attraverso la membrana e cerca di diluire quella più concentrata. Nel processo dell'osmosi inversa invece avviene l'opposto, ovvero sia si applica una pressione in maniera tale che invece l'acqua passa da quella più concentrata verso quella più diluita. Quindi in questo modo riusciamo ad ottenere acqua pulita da una soluzione che invece contiene dei sali disciolti, in questo caso la soluzione che contiene i sali è l'acqua di mare. Applicando una forza di pressione si fa passare l'acqua attraverso questa membrana e quindi dalla parte opposta si ottiene acqua pura. Ecco, qual è la prospettiva in termini applicativi di questa ricerca? Perché è un po' una caratteristica distintiva del premio Sapio quella di premiare ricerche applicate, comunque che hanno una forte connotazione applicativa. Allora, l'applicazione di questa ricerca permetterebbe di incrementare il fattore di recupero degli attuali impianti di installazione. Questo significa che permetterebbe di incrementare la quantità di acqua potabile che gli attuali impianti di installazione riescono a produrre a parità di alimentazione. E questo ha anche un ulteriore risvolto, ovvero sia che si scarica nell'ambiente una quantità minore di acqua concentrata, l'acqua di scarico che gli impianti solitamente scaricano negli oceani, quindi con un notevole impatto ambientale. In questo caso invece la quantità di acqua scaricata verrebbe notevolmente ridotta e quindi si avrebbe anche un ridotto impatto sull'ambiente. Economicamente questa ricerca che appunto è? Cioè si può già fare industrialmente questa operazione? Conviene o siamo ancora in una fase di sviluppo? Allora, questo tipo di ricerca prevede delle fasi per le quali è necessario ancora promuovere la ricerca. Donato Vincenzi, Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Ferrara. Il titolo della ricerca è Concentrazione solare e separazione spettrale per sistemi fotovoltaici di nuova generazione. Fotovoltaico sappiamo che cos'è, separazione spettrale vuol dire che si divide la luce nelle sue varie componenti di colore. Perché? Beh, il limite fondamentale della tecnologia fotovoltaica che tutti conosciamo, diciamo i pannelli che vengono installati sui tetti, è un limite intrinseco al materiale che viene utilizzato per la conversione. In particolare viene utilizzato silicio, che è un materiale estremamente comune sulla crosta terrestre, ma deve essere purificato in maniera estremamente raffinata per poter essere utilizzato. Ecco, questo materiale ha una caratteristica intrinseca, cioè una energia minima di attivazione, che viene detta energy gap, per cui non può convertire tutto lo spettro solare, che è estremamente ampio, va dall'infrarosso all'ultravioletto, e in più converte in maniera poco efficace l'energia al di sopra, molto al di sopra dell'energy gap, di questa energia minima di attivazione. Quindi funziona molto bene solo in una gamma molto stretta, diciamo. Esattamente. Per aumentare l'efficienza di conversione dei sistemi occorre sviluppare nuovi materiali che riescono a convertire le altre porzioni di spettro solare e trovare una maniera di separare la luce che proviene dal sole in queste componenti ed inviarle verso questi ricevitori fotovoltaici. Quello che è stato fatto presso il mio laboratorio, il laboratorio sensori semiconduttori dell'Università di Ferrara, è stato quello di progettare un sistema ottico, un concentratore solare, in pratica una specie di specchio parabolico che per le sue caratteristiche particolari utilizza dei film sottili, degli strati di film sottili che separano la radiazione solare in componenti spettrali, e questa luce viene concentrata fino a 100 volte su diversi ricevitori fotovoltaici che utilizzano appunto materiali che convertono in maniera molto efficace quella determinata banda di lunghezze d'onda. Qui siamo sul versante applicativo vicini, come dire, un'applicazione industriale su larga scala, o c'è bisogno ancora di ricerca? Beh, allora, il fotovoltaico concentrazione ha già dato i suoi frutti perché il Dipartimento di Fisica ha fondato uno spin-off, la C-Power, che attualmente sta realizzando e vendendo sistemi a concentrazione, che però non utilizzano ancora questa tecnologia della separazione spettrale. Questa tecnologia, diciamo, è in fase di studio, ha sicuramente dato degli ottimi risultati estremamente incoraggianti. Quello che dicono in America è che il diavolo sta nei dettagli. Quando un sistema fotovoltaico deve stare fuori 20 anni, occorre risolvere molti di questi dettagli per dare al cliente l'affidabilità che il sistema possa effettivamente funzionare per tutto questo tempo. Una domanda per tutti e due. È evidente che l'assegnazione di un premio di questo genere indubbiamente fa piacere, un contributo sia in termini economici che di prestigio. In generale, sta facendo il vostro percorso, quindi è un ricercatore di belle speranze all'inizio in qualche modo della carriera. Che cos'è che in Italia se poi avete delle esperienze all'estero potete fare anche un paragone, rende più difficile questo tipo di percorso. Vi chiedo una cosa a testa, cominciamo con Vincenzi. Allora, quello che a mio giudizio manco, diciamo che è più carente rispetto agli Stati Uniti, dei quali ho esperienza diretta, è quella che chiamano la struttura. Cioè non è tanto il ricercatore e quello che fa il ricercatore, ma tutto quello che gli sta attorno. Cioè risolvono tutti i problemi amministrativi, burocratici, eccetera, che in Italia un ricercatore invece deve affrontare direttamente. Quindi sostanzialmente potersi dedicare per una quota vicina al 100% all'attività di ricerca e non riempire formulari? Esattamente, esattamente. Macedonio? Sono assolutamente d'accordo, è esattamente la stessa cosa. Non occupare il tempo in altre cose, ma dedicare quasi il 100% del tempo solo alla ricerca. Va bene, dobbiamo arrenderci al fatto che la genialità e la sapienza umana impiegate nelle, chissà perché si usa questa definizione, arte della guerra, sono davvero senza limiti. Cosa sto per raccontarvi? Sto per parlarvi degli scavi di Dura Europos in Siria. Qui un gruppo di archeologi della Università inglese di Leicester sta lavorando sui resti di una ventina di scheletri. Si tratta di un manipolo di soldati romani. Dura Europos nel 256 a.C. era una città che apparteneva all'impero romano. Occupazione che non andava a genio ai persiani, allora ancora potente etnia nella zona. La città subì dunque un assedio che le ricerche archeologiche stanno ricostruendo nei suoi contorni. I persiani usarono tutte le possibili tecniche per penetrare nella città, ma anche la guarnigione romana rispose con altrettante tattiche molto diversificate. Ad un certo punto di questa battaglia i due contendenti decisero di utilizzare entrambi uno stesso metodo di guerra, scavare cunicoli, gli uni per uscire, gli altri per entrare in città. L'esistenza di questi cunicoli era nota da tempo, già nel 1930 in una di queste gallerie erano stati trovati i resti di quei 20 soldati di cui vi dicevo all'inizio. Ma al gruppo odierno di archeologi inglesi è venuta l'idea che a quella ventina di corpi, tutti vicini, verosimilmente morti nello stesso momento, bisognava dare una risposta. Dall'analisi dei resti, infatti, su quei corpi non c'erano segni di arti feriti. Allora i ricercatori hanno deciso di analizzare il terreno accuratamente. La scoperta è stata sorprendente. I persiani usarono una miscela di bitume e cristalli di zolfo, miscela di cui appunto c'è traccia nel terreno. Miscela tenuta pronta in un certo punto della galleria, probabilmente mentre i romani la stavano scavando e i persiani si erano accorti di questa cosa. Ad un certo punto cadde l'ultimo diaframma di terra e i persiani accesero la miscela, provocando un gas che, il dato è ben noto anche oggi, è in grado di uccidere in pochi attimi un essere umano. La conferma è arrivata direttamente dalla USA Airways, la compagnia a cui appartiene l'aereo, specificando che si tratta di 150 passeggeri, due piloti e tre assistenti di volo. È esclusa per il momento l'ipotesi terroristica, sembra appunto confermata quella di uno stormo di uccelli nei motori del velivolo. Proprio così, le cause dell'atterraggio di emergenza sul fiume Hudson sono state delle oche. È una storia di vecchia data, quella che racconta degli incontri ravvicinati tra gli uomini volanti e gli stormi di uccelli. Il 7 settembre del 1905 leggiamo sul diario dei fratelli Wright: compiuto volo di 4.751 metri in 4 minuti e 45 secondi. Inseguito stormo di uccelli, ucciso uno. La storia dunque inizia con gli uomini che, raggiunta la capacità di volare, si sentono addirittura in grado di cacciare dai cieli gli uccelli, ma le cose cambiano rapidamente. Il 3 aprile del 1912, Calbright Rogers, il primo pilota ad attraversare gli Stati Uniti costa a costa, muore precipitando con il suo aereo dopo l'impatto con un gabbiano. Nel 1960, il primo grande incidente. Il 10 marzo un aereo di linea decolla dall'aeroporto Logan di Boston e viene investito da centinaia di storni. I quattro motori dell'aereo si bloccano e il velivolo piomba sul porto della città. 62 le vittime. Dopo questo incidente, le autorità internazionali che presiedono alla regolamentazione dei voli decisero che era indispensabile chiedere ai costruttori di aerei la garanzia che i motori potessero in qualche modo sopportare un certo numero di incontri con i volatili. Seguirono così vari esperimenti per un certo numero di anni, nei quali, fra l'altro, vennero inventati dei marchingegni cruenti e paradossali che vennero soprannominati sparapolli. E in effetti si trattava di cannoni caricati con polli, i quali erano poi lanciati contro i motori, messi in funzione su un banco sperimentale, a terra. Con gli aerei a elica, sebbene il problema sia sempre rilevante, è però meno acuto che con i jet. Infatti l'elica può distruggere gli uccelli prima che entrino nell'ingranaggio. Con i jet niente impedisce che gli uccelli finiscano direttamente nella meccanica del motore. Se andate sul nostro sito www.moebiusonline.eu potete trovare una scheda che raccoglie alcuni video su questo tema e in uno di questi vedrete un uccello che penetra nel motore di destra di un aereo passeggeri in decollo. Il motore prende a sputare fiamme per un bel po' di secondi, ma fortunatamente non si blocca e non perde eccessiva potenza, sebbene si vede che fatichi a tenere la rotta. Sono svariate migliaia ogni anno i contatti aereo-stormi. Molti e spesso con gli esiti più gravi sono quelli con gli aerei militari, nei quali la presenza di un solo motore è causa, determinato il blocco, di una totale perdita di controllo del velivolo. Tra i video che potete trovare sul nostro sito ce n'è anche uno che ci mette nella posizione del pilota, dietro al parabrezza. Siamo nella fase di decollo di un caccia militare che prende il volo e punta verso le nuvole. A 5 secondi dall'inizio si vedrà un uccello che impatta l'aereo, un vero proiettile nero, velocissimo. Nelle immagini successive si vede che il velivolo vira a destra e poi progressivamente punta verso terra. Il pilota è riuscito a dirigere il mezzo verso un terreno agricolo, privo di persone e di abitazioni, poi però ha abbandonato il veicolo. Ecco, in conclusione, sebbene nella stragrande maggioranza dei casi gli incontri tra aerei e uccelli non diano luogo a esiti gravi, è però un dato di fatto che si tratti sempre di eventi con dinamiche e con effetti soprattutto non trascurabili. Questa puntata di Moebius finisce qui. Buona serata a tutti e tutte. Ci sentiamo la prossima settimana.